alla fine dei giorni avverrà. Il monte della casa del Signore sta solido sulla cima dei monti, alto più delle colline. Affluiscono verso di lui i popoli, numerose nazioni si incamminano e dicono: «Venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, che ci insegni le sue vie e noi camminiamo nei suoi sentieri». Perché da Sion viene la legge e la parola del Signore da Gerusalemme. Egli governa numerosi popoli ed è arbitro di potenti nazioni. Essi trasformano le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non leva più la spada contro un altro, né ci si esercita più alla guerra. Ciascuno è seduto sotto la sua vite e sotto la sua ficaia, senza esser molestato. Sì, la bocca del Signore ha parlato. Sì, tutti i popoli marciano, ciascuno nel nome del suo Dio. Noi marciamo nel nome del Signore nostro Dio in eterno e sempre. In quel giorno, oracolo del Signore, raccoglierò gli zoppicanti, riunirò i dispersi e quelli che ho maltrattato. Io farò degli zoppi un resto e degli stanchi un popolo potente. Il Signore regnerà su loro sulla montagna di Sion, da ora e per sempre. E tu, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te ritornerà la sovranità d'un tempo, la regalità della casa di Israele. Ora perché gridi così forte? In te non c'è forse un re? Sono forse periti i tuoi consiglieri che ti han colto le doglie come una partoriente? Contorciti e lamentati, figlia di Sion, come la partoriente, perché ora dovrai uscire dalla città e dimorare nella campagna. Tu andrai fino a Babilonia, là tu sarai liberata, là ti riscatterà il Signore dal pugno dei tuoi nemici. Ora si sono riunite contro di te numerose nazioni, esse dicono: «Sia profanata, il nostro occhio si sazi della rovina di Sion». Costoro non hanno capito i disegni del Signore, non hanno indovinato il suo piano, li ha raccolti come i covoni sull'aia. «In piedi, batti il frumento, figlia di Sion, perché il tuo corno lo renderò di ferro, le tue unghie le renderò di bronzo, e tu ridurrai in polvere molte nazioni. Voterai al Signore le loro rapine, e le loro ricchezze al Signore di tutta la terra». Ora raccogli le truppe, figlia della truppa. Essi hanno posto l'assedio contro di noi. Con la verga colpiscono sulla guancia il giudice di Israele.